Benvenuti a tutti e a tutte le ascoltatori e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Mi sto subito impappinando, parto subito così, un casino. Va bene, ricomincio. Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sulle 87.9 in FM per lo streaming. Potete andare sul sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto a tutti coloro e a tutte coloro sono private della loro libertà personale. Io inizio così, un po' malinconica, però poi finisco più allegra, giuro. Non ci si sente soli quando si perde qualcuno di caro, ma quando si hanno accanto persone che non ci capiscono e che parlano una lingua diversa dalla nostra. Ma questo oggi non può accadere, perché quando c'è di mezzo l'arte, la musica e il cinema, buono, tutti riusciamo a capirci o a sentirci capiti. Oggi ho accanto una persona che, anche se lui non lo sa, io sento di essere stata capita. E spero che anche lui mi capisca, però questo non ha importanza. Però spero che chi è all'ascolto oggi si sentirà come me compreso, perché a me è successo questa magia nel momento in cui ho ascoltato la musica del nostro ospite. E così oggi, grazie a questa piccola grande radio, anche per voi durante l'ascolto della puntata di questo giovedì, forse si celebrerà la stessa magia che ho sperimentato anche io nel momento in cui ho ascoltato Le tracce di cinema di Valerio Villar. Valerio Vigliar o Vigliar? A seconda. Vigliar, verso l'infinito, slanciamoci, no? Va bene, è nato a Roma il 4 ottobre 1976, è un musicista, è un compositore, ha studiato filosofia durante l'università, si è diplomato al conservatorio, ha lavorato il famosissimo direttore d'orchestra Emilio Rabaglino, ha fatto parte della compagnia teatrale TDA, Teatro delle Apparizioni, che magari poi ci racconterai qualcosa. Certo. E poi insomma ha curato le colonne sonore di moltissimi film, e questa era una traccia proprio di una colonna sonora di un film. Sì, esattamente, di Good Morning Aman di Claudio Noce, e la voce di Mia Giulia Schettino, una bellissima voce, adesso ci direi di più, e composta da te. Sì, allora questo pezzo che ha il nome omonimo del film è un pezzo a cui sono molto legato, perché è uno di quelle composizioni che vengono al compositore non guardando le immagini del film ma leggendo la sceneggiatura, quindi diciamo che è l'iter del processo creativo che a me piace di più, cioè quando un regista si affianca a me all'inizio, proprio quando sta scrivendo. E questo pezzo, come dicevo, è piuttosto importante perché l'ho scritto leggendo la sceneggiatura della storia. E tra l'altro è stato un one take recording, nel senso che è stato registrato in presa diretta completamente, senza click, tranne poi la voce di Mia Giulia, che è stata registrata successivamente. I musicisti che hanno suonato questo pezzo sono Alessandro Marzi alla batteria, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Marco Bonini e Flavio Pasquetto alle chitarre. Allora, intanto io volevo dire a Valerio che ha un bellissimo sito, vi invito ad andarlo a vedere, ci sono tutte quante i suoi lavori, i suoi album, insomma è veramente molto ben fatto, e oltre ad essere un gran bravo musicista, insomma io l'ho potuto apprezzare, non ti conoscevo, Valerio, dico la verità, però ho sentito le sue tracce, le sue musiche preparando la trasmissione, mi sono davvero molto emozionata, e non lo dico perché ci sei tu, ecco, non lo dico per piaggeria, però per questo mi sono poi intrippata anche a cercare delle cose proprio tue, insomma non, di solito io preparo le trasmissioni cercando le cose in giro, su internet, sui giornali, così, e quindi sono finita nel tuo sito, che è veramente molto ben fatto, nelle quali tu dici delle cose, credo, scritte da te. Sì, sì, assolutamente. Veramente molto belle, da filosofo. E quindi, oltre che un musicista, è anche un filosofo, perché spesso le due cose sono vicine. Infatti, tu sei anche laureato in filosofia. Sì, che poi bisogna fare delle correzioni, perché io non sono né laureato in filosofia né diplomato al conservatorio. Ah, allora perché? Vedi. Perché il mio iter è stato piuttosto particolare, che quando avevo 20 anni mi sono iscritto a filosofia e sono entrato dentro al conservatorio di Santa Cecilia a direzione d'orchestra e composizione, ma dopo 2 anni sono stato cacciato dal conservatorio. e questo è il nostro ospite dello scorso giovedì, per questo il nostro ospite dello scorso giovedì sarebbe felicissimo, Enrico Melozzi, perché consiglia a tutti quanti i musicisti di non fare assolutamente gli studi al conservatorio. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro è stato anche per me è stata una fortuna essere cacciato dal conservatorio, perché dopo ho avuto la possibilità di incontrare il mio unico e vero maestro, che è questo personaggio che sembra uscito da un romanzo dell'Ottocento, che chiamasi Emilio Rabaglino ed è stato il più giovane direttore d'orchestra dell'Orchestra Stabile di Buenos Aires. Poi dopo la crisi scappò in Francia, poi in Italia, e lui è insomma piuttosto anziano adesso, insegna a casa e insegna soltanto a persone che ritiene vengono cacciate da conservatorio. Esatto. Quindi diciamo che sono contento di questi. E io sul tuo sito ho annotato delle cose. La prima cosa che ho scritto leggendo la sceneggiatura, stiamo parlando del film Good Morning Aman. La prima cosa che ho scritto leggendo la sceneggiatura è una ballata sognante con il titolo omonimo del film, che è proprio il pezzo che abbiamo, esatto, sentito poco fa. E, ho visto un uomo camminare nel deserto senza fretta, senza una meta precisa, ma con la profonda consapevolezza di andare nella direzione giusta. È stato il mio primo e più profondo contatto con la storia. Durante il montaggio ho scelto insieme a Claudio due differenti piani linguistici da usare nel film: canzoni da una parte e musica concreta elettronica dall'altra. Beh, due cose. Sì, nel senso che belle diverse, no? Belle diverse, perché l'uso della musica nel cinema è una cosa che mi ha sempre affascinato moltissimo, non tanto da musicista, e questo sembra strano, ma da spettatore. Nel senso che uno dei, per esempio, per farvi un esempio, uno dei dei film che mi ha più toccato fu Festen, in quel periodo del Dogma, ed è un film senza musica. Cioè, io sono molto affascinato da quando la parola e l'immagine non ha bisogno del contraltare sonoro. A maggior ragione, però, quando vengo chiamato per fare il compositore, ovviamente cerco di stare attento e quindi di utilizzare da una parte la musica vera e propria. Quindi musica vera e propria intendo un linguaggio melodico in cui il colore della musica diventa talmente tanto importante per cui diventa quasi un personaggio. E questo ha senso soltanto quando il regista, diciamo, che prende in considerazione il fatto che nella scorrere delle immagini nel tempo ci sia anche il personaggio della musica, perché altrimenti si rischia quello che, insomma, vediamo noi nell'uso della musica nella TV, nelle serie, in cui la musica non fa nient'altro che ricalcare e ridondare quello che già c'è, no? Beh, qualcuno diceva che uno degli elementi decisivi di un buon film è il fatto che non ci sia una colonna sonora. Esatto, sono totalmente d'accordo. E in questo senso mi farebbe piacere farvi ascoltare un altro pezzo che si chiama Le scarpe. Vorrei farvi sentire Le scarpe perché ho cercato di dare un colore a un rapporto molto importante nel film, cioè tra questi due ragazzi, il protagonista, Aman, che decide di rimanere in Italia, a Roma, e il suo migliore amico che invece decide di andarsene fuori. Va bene, e questo momento è, insomma, molto toccante. Ascoltiamocelo, poi ti dico la suggestione che ho avuto io quando ho sentito Le scarpe. Questo pezzo era Le scarpe, sempre tratto dal film, dalla colonna sonora del film Good Morning Amman. E a me, personalmente, che con Federico e Davide abbiamo curato anche una trasmissione qualche anno fa che si chiamava Sono favole, erano favole raccontate ai bambini da attori più o meno famosi, e quando l'ho sentita ho pensato a una favola di Gianni Rodari. Ma guarda, in un certo senso ci hai preso, perché comunque il sentimento che ho voluto tirar fuori, tra l'altro nella scena esatta in cui è stato montato questo pezzo, è molto interessante perché c'è il dialogo tra questi due ragazzi in cui Aman, che sta a Roma, cerca di convincerlo a dirgli: ma dove stai andando? Guarda che nel canale della Manica ci stanno gli squali. Insomma, gli inizia a fare delle battute e inizia questa dissolvenza tra la presa diretta, il pezzo, e tutta la scena inizia ad andare in rallenti con questo Aman che regala un paio di scarpe a questo ragazzo che deve partire. E quindi quello che dici te di qualcosa che assomiglia a un mondo più infantile, più favolistico, c'è, nel senso che è quella magia dell'amicizia, no? Di adolescenza, che un po' si rompe perché a un certo punto bisogna fare delle scelte importanti, no? Che magari no, ti portano a dividerti. Thank you. questa era Sus 2, sempre la colonna sonora di Good Morning Amman, composta da Valerio. Sì, vi dico due cose su questo pezzo, perché è uno dei leitmotiv del film, nel senso che è uno di quei pezzi che ho scelto prima che venisse montato il film, però è un pezzo particolare perché l'ho registrato in giardino nel 1999, io suonando la chitarra con un ampli gigantesco che mi avevano prestato, e quindi ci sono i rumori delle cicale, ci ho fatto sovraincidere sopra mio fratello che suonava sia il sax che il flauto, ma senza fargli emettere delle note, ma soltanto dagli armonici dei tasti, e ho creato questa, perché il momento è uno dei momenti principali del film, in cui il protagonista usa come suo, diciamo, momento mistico la notte di girare per i tetti delle città, cioè del quartiere Squilino, e quindi in queste passeggiate notturne c'è questo pezzo che accompagna le sue meditazioni. E questo ragazzo è poesia pura, come potete sentire sia dalla sua musica che dalle sue parole, è veramente poesia pura. Invece con Claudio Noce, non so, mi pare forse l'avevi già detto tu, che nel 2005 avete fatto un'altra cosa insieme, Aria. Sì, Aria con è cui stato lui il ha primo... vinto, avete vinto forse anche tu proprio per la musica, il David di Donatello, o sbaglio? No, lì il David è stato vinto soltanto il come miglior cortometraggio. Sì, poi il film, il corto ha vinto anche altri premi come miglior colonna sonora, ma io non ho scritto tutta la colonna sonora, perché ci sono dei pezzi di un musicista elettronico, si chiama Murkoff. Io scrissi questa parte di solo piano per la scena finale, che diciamo è stato il momento di incontro con Claudio, che non ci conoscevamo. Di questo film si è detto molto bene, anche se è un film abbastanza crudo, in cui c'è questo incontro tra questi due personaggi diversi. Uno è questo ragazzo straniero e l'altro è un romano interpretato da Valerio Mastandrea. Invece il nostro Aman è interpretato da Said Sabri. È un incontro su un palazzo dell'Esquilino, su una terrazza dell'Esquilino. Entrambi sognano il loro futuro, esatto. Un futuro diverso probabilmente, ed è proprio un'immagine, un quadro abbastanza crudo di quanto questa società sia diventata individualista e molto disgregata a volte, quanto siano difficili anche i rapporti tra le persone, quelle che sono più vicine, per esempio all'interno di una famiglia, no? Uno pensa che la famiglia sia un posto protetto, invece non lo è affatto in certi casi, così come non lo è affatto anche nei rapporti normali, umani, che si hanno tra le persone, perché sono molto spesso fittizi e superficiali e finti. questo brano è si chiama La Famiglia Felice, e la colonna sonora dell'Ultimo Terrestre. Dici qualcosa, Valerio? Allora, innanzitutto, che dire, l'esperienza dell'Ultimo Terrestre è stato davvero esaltante, perché ho avuto a che fare con un personaggio dirompente, esplosivo come Gipi. Poi anche nelle tempistiche, nel senso che loro hanno avuto dei problemi con il musicista precedente, mi hanno chiamato proprio in corsa d'opera, cioè a meno di un mese dalla scadenza della consegna. Ed è stato fighissimo, perché Gipi ha non essendo tra virgolette un regista, ma un artista puro, mi spingeva in continuazione a osare, cosa che tendenzialmente non sento molto dai registi, anzi sento un sacco di indicazioni precise, invece lui proprio era e quindi mi ha acceso tutto una roba, insomma mi sono divertito come un pazzo. Il pezzo che avete sentito fu molto una grande soddisfazione, perché è il primo pezzo che è davvero scritto sulle immagini. Tra l'altro è l'inizio del film, un inizio molto linciano, in cui il protagonista va da una prostituta che lo accoglie in un ex mobilificio, una cosa veramente incredibile. Il film è molto così, molto fantasioso, onirico, insomma si ispira un po' proprio alla fantascienza, ma poi di fantascienza c'è ben poco, c'è questa presenza che dovrebbe arrivare di alieni, ma sì, che poi diciamo non arrivano, no? Non arrivano mai. No, io ho sempre visto questo trick narrativo degli extraterrestri come appunto una funzione drammaturgica per dire qualcos'altro. Certo, nel senso che... è ovvio. E però vorrei parlare con te anche di Gianni Alfonso Pacinotti, che in questo film era la sua opera prima. Sì. E è pisano. E chi conosce i fumetti, chi è appassionato di fumetti, sa di chi è in arte si chiama Gipi, è un fumettista bravissimo, con una biografia veramente intensa, ha fatto veramente tante cose, ha vinto tantissimi premi, vabbè vi dico soltanto, non so, ha curato l'illustrazione all'interno del libro di Alessandro Baricco, prima pubblicato su Repubblica e poi invece pubblicato anche dagli editori, eccetera eccetera, eccetera. Poi vabbè, L'Ultimo Terrestre, che ha partecipato alla mostra internazionale del cinema di Venezia. Nel 2014 ha fatto una graphic novel dal titolo Una storia, che entra nei 12 finalisti del premio Strega. Sì, fu una cosa molto bella quella. E la candidatura ha suscitato un certo dibattito sullo status del fumetto come opera letteraria. Lo stesso dibattito poi si è riacceso, seppure in tono minore, l'anno successivo, quando a essere candidato per lo stesso premio, certo, è stato il graphic novel Zero Calcare, un amico della radio, lo salutiamo. E, sì, anche qui è perché in Italia i fumetti non hanno nessun tipo di valenza letteraria. Se vai in Francia, insomma, tant'è che Gipi ha vissuto un bel po' di anni in Francia, perché vinse, mi sa, uno di quei premi importanti, insomma. Beh, e poi c'è tutta una storia non so se la sapete, sul lancio di questo film. Tu te la ricordi? Che hanno fatto tutta una storia su YouTube di tutti con dei video che arrivano gli alieni. Sì, è vero. E poi c'è un video in cui c'è la giornalista CG3 Maria Cuffaro che annuncia l'arrivo appunto degli alieni, tutto per pubblicizzare il film. Cioè, Procacci è un genio del male proprio. Beh, insomma, Gipi, ci parli di questo Gipi? Che tipo è? Tipo, sono curiosa. Guarda, vi posso raccontare un aneddoto molto interessante. Mi arrivò questa telefonata da Giovanni Guardi della Fandango, dicendomi che c'era quest'opera prima che veniva prodotta, insomma, se mi andava di collaborare, e mi disse il nome di Gipi. Io, essendo veramente in questo spero che sia voi che gli altri mi crediate, essendo proprio un lupo solitario che sta a casa a scrivere, a sentire magari cose che non appartengono a questo lasso temporale in cui viviamo tutti, non lo conoscevo, e quindi ero anche un po' spaventato dalle opere prime, perché avevo avuto già a che fare, avevo avuto degli incontri, ero un po' quando l'ho incontrato è stato fantastico, perché lui mi disse prova a fare dei provini su scena. Io ho fatto un paio di provini, lui mi chiamò il giorno dopo e ha detto: Valerio, non mi piacciono i provini, però sei tu il musicista e venne direttamente a casa mia, e quel giorno iniziamo a scrivere, a creare, insomma. Fantastico, andiamo avanti? Sentiamoci un altro po' di musica, dai. Thank you. questo era un altro brano della colonna sonora dell'Ultimo Terrestre, in particolare questo si chiama La Rivelazione. Ed è particolare perché questa è l'ultima scena del film in cui, dopo tutto un disastro, in cui si scopre che davvero gli alieni sono arrivati sulla Terra e applicano un sistema molto particolare, cioè fanno del male a chi è cattivo e salvano chi è buono. Cioè questa morale, ma pensa un po', questa morale molto infantile che però lancia un segnale molto forte. E quindi la scena è il riavvicinamento tra la coppia principale del film, e poi quando finisce il pianoforte ci sono questi cori che accompagnano lo sguardo del personaggio principale che si va verso il terrazzo e vede un, diciamo, uno spettacolo apocalittico. E a quel punto, quando inizia ad abbozzare il mezzo sorriso, ho messo questo sync, boom, questo synth molto, poi c'è un attimo di silenzio, nero, e finisce il film. Senti, invece, per proprio saltare di pelle in frasca, ci stacchiamo dal cinema e tutto quanto, però volevo ricordare vorrei dire agli ascoltatori che in questo momento sono sintonizzati che Valerio è stato molto attivo politicamente, ha partecipato all'occupazione del Teatro Valle in modo proprio attivo, nel senso che sei stato... Allora, io ho partecipato sia nei primi giorni di occupazione, insomma stando lì, suonando un pochino, poi l'esperienza più significativa è stata la direzione artistica che ho fatto dopo un annetto dell'occupazione, in cui ho avuto 7 giorni a disposizione del teatro per proporre varie cose, in cui mi sono divertito veramente come un matto. Ho fatto uno spettacolo di teatro in cui ho coreografato un mio disco, e quindi ho fatto anche il regista, ho fatto varie è stato cose. Bello, era un bello spazio il teatro, Valle, per l'espressione, ma non solo per gli artisti che volevano esprimersi, ma proprio per anche i fruitori, no? Sì, tra i tanti bei frutti del Teatro Valle occupato ci sono proprio, che riguardano poi strettamente questa trasmissione, ci sono stati Enrico Melozzi la scorsa settimana, oggi Enrico Vigliar, che ho conosciuto tra Teatro Valle occupato e anche la trasmissione che qui il Teatro Valle occupato faceva qui in radio. Sì, certo. Sì. E poi, oltre, insomma, all'esperienza politica all'interno del Valle, tu sei comunque dentro l'Angelo Mai, che comunque ha una storia abbastanza politica, perché è stato un posto occupato per anni, adesso è diventato un po', diciamo, un po' più legale. Sì, diciamo, no? Che l'esperienza dell'Angelo è un'esperienza che subito dopo quella del Valle mi ha coinvolto in maniera ancora più diretta, e quindi faccio parte proprio del collettivo, e lì c'è un tipo di attivismo politico virato alla lotta culturale, diciamo. Quindi sì, è uno spazio che viene da una realtà di occupazione, però è stato poi assegnato, e adesso a gran fatica stiamo cercando di, no, di destreggiarsi. Beh, tutte le cose belle hanno bisogno, insomma, di lavoro. Ma tutto questo mi è venuto in mente sempre perché, leggendo dal sito di Valerio Vigliar, ho trovato una frase molto bella che vi leggo. Fare cultura significa fare e proporre al pubblico delle opere che siano nate dal profondo e urgente bisogno di raccontare la propria verità surreale, di far sentire la propria voce, fregandosene di tutto e di tutti. Tutto ciò ha per me anche una forte valenza sociale e politica. Quindi, proprio per questo volevo parlare un po' con te di quanto oggi la musica, perché poi tu fai una musica, diciamo, anche classica, così, jazz, però fai anche una musica anche abbastanza, poi sentiremo una traccia contemporanea, anche certo, abbastanza forte, certo, che ha una valenza forse non politica, però di ribellione, ecco. Quindi quanto sei ancora di ribelle nella musica oggi, o perlomeno di quello che ci vedi tu? Allora, questo è un discorso molto complesso, però mi va di risponderti, spero, sinteticamente. E il problema più grosso dell'arte oggi come oggi, ovviamente lo sappiamo tutti, e spero che gli ascoltatori di questa radio siano più sensibili di altri, cioè, nel senso, stiamo nel mercato, e purtroppo il mercato, anche inconsciamente, secondo me, distorce moltissimo i processi creativi e le intenzioni che poi stanno alla base della creazione, perché secondo me un artista vero è quello che riesce a spogliarsi sempre di più del proprio ego per tirare fuori davvero quello di cui ha bisogno. E questo ovviamente ha a che fare con una predisposizione individuale che deve partire da, da basi molto profonde. Però, ma di cui ha bisogno lui o di cui hanno bisogno gli altri? Secondo me il bisogno profondo di un individuo corrisponde col bisogno degli altri, nel momento in cui il bisogno è davvero quello profondo, perché se il bisogno corrisponde soltanto a un desiderio di affermare il proprio ego, la propria vanità, il fatto di piacere, cioè, per questo ti dicevo che è molto lungo, però... Vabbè, magari ci rivediamo e approfondiamo. Volentieri. Magari dopo ci beviamo una birretta. Vabbè. E questo brano si chiama La Corsa, sempre la colonna sonora dell'Ultimo Terrestre, composto da te, Valerio, e l'hai anche eseguito te? No, questo pezzo pure c'ha una genesi particolare, perché questo è un... GP, quando venne a casa mia, quel folle aveva scritto una colonna sonora per il film, di suo pugno, perché lui si diverte con dell'elettronica. E quindi io penso che proprio molto, molto puramente gli dissi, ma perché la devo scrivere la colonna sonora? L'hai fatta io, te la produco. E di tutti i pezzi alla fine... l'unico da cui ho attinto e l'ho riprodotto è questo, quindi in questo pezzo c'è lo zampino reale di Gipi, cioè proprio lo zampino musicale di Gipi. Hai fatto altra musica elettronica? Leggevo che hai iniziato con la musica elettronica. Non è reale, cioè, come carriera da musicista, tu no, dici? Come qui c'è, non so dove Ottavio ha preso questo testo, dice hai iniziato con la passione per la musica elettronica e fonia. Lo sapevi, sì, nel senso che vanno di pari passo, perché quando avevo 19 anni mi sono reso conto che per produrre delle cose mie, oltre ad essere un musicista, dovevo essere un fonico, perché sennò non potevo essere indipendente. Quindi compra il Pro Tools e impara. E quindi da lì la mia virata è stata un attimo, cioè non solo capire cosa scrivere, ma come produrlo, come registrarlo, che ambiente dargli, che microfono mettere, dove metterlo. La masterizzazione. Sì, insomma, il mix e tutto quello. Quindi da lì, dai miei 20 anni, ho iniziato anche questo. Perché mi sono reso conto che se volevo, tra virgolette, essere anche questo competitivo sul mercato, dovevo avere più competenze possibili, insomma, ecco. Vabbè, domanda contorta, l'ho scritta però è comunque contorta. E l'altro giorno con i compagni della radio si discuteva degli strumenti che il potere usa per distoglierci dai nostri obiettivi, ti ricordi, Fede? E, per distrarci, uno di questi strumenti per alcuni di noi era la confusione. Noi parlavamo di confusione a livello di mezzi di informazione e di informazione, ma in fondo oggi c'è una sorta di confusione anche nella musica, e questo è Babilonia per te, no? E Babilonia, pensando al tuo lavoro, no? Quello che hai fatto poi anche al Valle, no? è stato presentato al Valle, sì, mi pare. Anche al Valle, sì. E, per certi versi è giusto Babilonia, confusione, per altri no. Com'è con la musica? Allora, tornando all'incipit della tua domanda, senza arrivare proprio alla Babilonia, sì, quali sono gli strumenti attraverso cui ci confondono? Assolutamente l'informazione, ma più che altro è una cosa su cui io sono molto duro ultimamente, cioè sull'intrattenimento. Cioè, torniamo anche alla domanda che abbiamo fatto prima, no? La musica, l'arte, il rapporto con gli spettatori, il rapporto e la predisposizione che deve avere un artista vero. Ecco, chiediamoci questo. Siamo ormai in un mondo in cui pare che l'unica cosa che ci interessa davvero è essere intrattenuti. E badiamo bene a che cosa significa intrattenimento, perché l'intrattenimento può essere anche un intrattenimento emotivo, cioè litigare in continuazione con il proprio ragazzo, e intrattenimento musicale, quindi sentire questo, cioè nel senso che ci hanno un po' assuefatto. E questo, soprattutto chi studia alcuni linguaggi artistici, cioè i musicisti, gli architetti, i pittori, si rendono conto che c'è stato un appiattimento totale del livello di linguaggi rispetto alla tradizione. Io tradizione non intendo la tradizione di 5.000 anni fa, ma intendo quella pseudo tradizione che è nata nell'Occidente, in Europa, quindi con periodo barocco, romantico, cioè, lì c'è comunque un po' di tradizione. Sembra che, non lo so, se tu senti la musica di oggi, molto spesso è super piatta, perché siamo stati troppo influenzati da, secondo me, il sentire una musica molto dozzinale. E in questo l'elettronica, se da una parte ha aperto molte possibilità espressive e timbriche, dall'altra ha appiattito moltissimo, secondo me. Insomma, certamente la musica di plastica, diciamo, sì, la sequenza, il fatto di fare musica non più con le orecchie ma con gli occhi, non tutto sul sequencer, e diventa quasi fare decorazione, non so come dirti, che per carità, anche la decorazione va bene, ma la decorazione è intrattenimento, per cui molto spesso questo film è incredibile, no, non è un capolavoro, è intrattenimento fatto bene, ma ti ha intrattenuto. Perché poi il discrimine, ripeto, è molto difficile anche rispetto al livello percettivo che ha lo spettatore. Per cui non è, io non mi sento di dare un giudizio per cui uno spettatore è cattivo o è perché non riesce a capire che quella cosa lì l'ha soltanto intrattenuto per 2 ore, anche se si è messo a piangere. Cioè non è tanto quello. Ecco. È bello parlare con Valerio Villar. Spero di poterlo ospitare, vero Fede, magari un'altra volta, con tutte le sue tracce techno che a me piacciono tanto. Andiamo avanti con la musica, che dite? Questa è la colonna sonora della Terra dei Santi, il brano omonimo, composto ovviamente anche questo da Valerio Villar, che è qui con noi. Siamo nel 2015, il regista è Fernando Muraca, opera prima. Esatto, un film a cui tengo molto, più che altro per il lavoro molto caparbio che ha fatto Fernando e sta portando in giro il film, che secondo me ha un senso sociale molto forte, perché parla ovviamente di un problema che ci tocca da tanto tempo, che è quello della mafia e in particolare dell'Ndrangheta. Però racconta una storia che sta succedendo da qualche anno nel sud, cioè la magistratura sta cercando di attaccare le piramidi, diciamo, di potere mafiose, toccando le mamme. In che senso? Cioè togliendogli la patria potestà, cioè trattando i figli dei mafiosi come se fossero figli di tossicodipendenti. Quindi sta succedendo che molte mamme, tra virgolette, che appartengono mogli di boss mafiosi, quando vedono che gli tolgono i figli, in un certo senso collaborano, si pentono. Quindi attraverso questo meccanismo anche molto forte, per cui il film è stato anche costruito intelligentemente, perché le protagoniste sono tre donne, di cui c'è Valeria Solarino che fa una magistrata, e poi le altre due sono due mogli di boss mafiosi, Lorenza Indovina, esatto, una che si pente e l'altra no, quindi, e Daniela Marra. Quindi volevo dire questo su questo film, perché secondo me il regista ha fatto un'operazione sociale che comunque va molto al di là dell'operazione artistica, ecco. La Terra dei Santi è basato sul romanzo Il cielo a metà, con cui Monica Zappelli, già sceneggiatrice dei 100 passi, fa il suo debutto nella letteratura. Ed è bella questa cosa delle colonne sonore che hai curato, perché sono tutte legate a dei film che non sono, proprio per ritornare al discorso di prima, non sono solo intrattenimento, cioè intrattengono anche, perché sono tutti film carini, deliziosi, anche così leggeri per certi versi, no? Però hanno tutti quanti l'obiettivo comune di dire qualcosa, chi più, chi meno, chi più... Sì, chi in un modo, chi in un altro. Chi in un altro, sì. Sì. È un effetto così casuale? Ma io sono molto convinto. O è stata una tua ricerca nella scelta delle persone che, insomma, che magari ti hanno contattato per curare le loro colonne sonore, e tu hai scelto questa sì, questa no? Ma guarda, in questo ambiente, tra virgolette, di cinematografari, soprattutto nell'ambiente, diciamo, autoriale, fortunatamente c'è un po' di meritocrazia, nel senso che non stando ancora nel mainstream, gli autori, prima di chiamare un collaboratore, ascoltano. E quindi è ovvio che per la legge dell'attrazione, se io ho, diciamo, una carica magnetica di un certo tipo, perché penso delle cose, scrivo un certo tipo di musica, è ovvio che mi si avvicinano delle persone che sono vicine al mio mondo. Ecco, non mi è mai capitato di ricevere una commissione totalmente fuori, cioè mi capitano delle commissioni che non nel mondo dell'intrattenimento, perché, e adesso le sentiremo, una predilizione molto forte per le musiche da banda. Sono un patito, perché io sono un amante di Nino Rota. E sei un fanatico. Amante di quella cosa anche italiana, e quindi farei sentire questo pezzo che si chiama Bombardino, che fa parte di un altro film. Sì, che lo ricorda molto, ne stavo parlando prima con David. E questa era Bombardino, composto per il film Ci vorrebbe un miracolo, di Davide Minella, anno 2014. Sì, questo è un film divertente, una docu-commedia che ha scritto Davide Minella, in cui si cerca di veicolare un messaggio molto triste, cioè della moria del pesce nei nostri mari, attraverso però una storia di finzione, una commedia, insomma. E qui mi sono divertito con una, come dicevo, una delle mie passioni, che è la musica per banda. Sì, e della sua filmografia a me non conosco praticamente nulla, però mi hanno incuriosito i titoli, ve li voglio leggere. Scrittori nel pallone, credo del 2003, Mai dove dovremmo essere. Questa proprio questo titolo di questo short, che era un cortometraggio, mi riguarda e me lo andrò a cercare. Tra l'altro con Sergio Rubini, prodotto da Fandango. Scrittori nel pallone, che credo che sia una cosa sul calcio. Non so se... Questa però non l'ho fatta. No, sto parlando di Davide. Del regista, sto raccontando un po' di lui, di questi titoli che mi sono piaciuti. Poi La Porta, Come si deve, un altro titolo importante, con Piera degli Esposti e Diane Fleury, presentato in anteprima al 60° Festival di Berlino. E poi Ci vorrebbe un miracolo, del 2014, la cui colonna sonora è stata curata dal nostro meraviglioso ospite, e nient'altro che La verità. E poi ha fatto moltissima TV, pubblicità e programmi e tantissimi corti. We E abbiamo ascoltato un brano, We Are Looking for Love. Rough Mix è una versione di questo brano. Sì, nel senso che è una, non l'ho mai prodotto questo brano, perché okay. L'ho scritto per la colonna sonora della Nuova Babilonia, questo film muto del 1928, nato da una commissione del Palazzo delle Esposizioni. E questo pezzo l'ho scritto perché a un certo punto del film c'è un personaggio che inizia a urlare, ovviamente in russo, We are all looking for love, cioè. E quindi da questa cosa qui ho scritto questa canzone, che non ho mai registrato. Quindi Rough Mix intende che è uno dei rough mix dei vari live che abbiamo fatto. Abbiamo fatto due performance al Palazzo delle Esposizioni, una al Teatro Valle e una all'Angelo Mai, nell'arco di 2 anni, insomma. Ed è un film che mi ha spaccato il cuore, ambientato durante la Comune di Parigi, questo scontro tra la borghesia e i comunardi, che però alla fine perdono entrambi, e quindi è un film molto amaro, commissionato ovviamente dal regime sovietico per affermare la forza del Partito Comunista. Non verrà mai menzionato troppo rispetto agli altri film che furono commissionati all'epoca, perché proprio per questo motivo, perché esce un sapore veramente amaro, cioè i comunardi non escono come dei veri vincenti, ma solo delle vittime, come gli stessi borghesi. Insomma, questo poi è il mio punto di vista molto personale, però ecco, è stata una cosa molto molto forte. E i musicisti che hanno suonato con me dal vivo sono Alessandro Marzi, che suonava la marimba e le percussioni, Gianluca Vigliara ai sax, che è tuo fratello, esatto, e Angelo Maria Santisi al violoncello. Beh, che dirvi, che questa è una piccola grande radio, l'ho detto prima e lo ridico, sono fiera di essere davanti a questi microfoni e onorata di essere davanti a questi microfoni e di appartenere a questa radio e di essere accanto a un bravo musicista, a una bellissima persona, e di spero che anche gli ascoltatori siano felici e onorati di ascoltare la radio e di aver ascoltato le parole di Valerio. E se è così, sapete bene che la radio non naviga in acque tranquille, ha bisogno del vostro sostegno, ha bisogno di un vostro contributo. Valerio ha detto una frase, adesso ve la dico, la devo cercare un attimo, c'è un po' di musica da mettermi mentre cerco. Un brano suo. Una cosa al volo, che poi vi dico la frase, che è proprio perfetta per darvi le coordinate. Questo brano era The Clock, e la colonna sonora di La Scuola d'Estate. E io, come spesso accade durante la trasmissione, faccio mie parole di altre persone, e questa volta parlo e dico delle parole che sono del nostro ospite Valerio Vigliar. Ci sono tante cose che si possono fare e tante altre che invece si devono fare, e una cosa tra queste è quella di sottoscrivere, di contribuire al sostegno di questa radio, che ne ha bisogno veramente tanto. Chi può deve farlo, perché è importante, perché è una voce libera. Fra poco compieremo 40 anni e se gli ascoltatori e tutti coloro che la amano e tutti i liberi pensatori e tutte le persone che vogliono e amano amano la controinformazione, che amano questa radio ricca di contenuti, di trasmissioni, di musica, di informazione fuori dal coro molto molto ben fatta, allora è questo, è ciò che dovete fare, è contribuire alla radio. Numero di conto corrente postale? Sì, magari. Te lo dico io. Stavo cascando. 6180 4001. Però potete contribuire anche grazie con il sito della radio, che è www.ondarossa.info. C'è un pulsante dove potete sostenere la radio con una carta di credito, senza andare alla posta, senza sbattimenti, facendo proprio tranquillamente da casa. Dai, sottoscrivete, forza, non abbiate paura. Aiutateci a vivere e aiutate anche voi a vivere meglio grazie a noi. Che ci sentiamo? Un'altra cosa? Sì. Sì. Thoughts Like Birds. Sì, è un pezzo che chiude la scuola d'estate, è un pezzo che ho scritto insieme alla cantautrice Sylvie Lewis, di cui sono molto affezionato a questo pezzo. Ciao a tutti. Themselves in feathered things. Thoughts like birds, 'cause when they're hungry, they just spread their wings. Birds like thoughts because they are family. Curious and questioning, always there and reckoning. Thoughts like birds, 'cause they can see themselves in feathered things. Thoughts like birds, 'cause when they're hungry, they just spread their wings. Spread their wings. Thoughts like birds.